Sai essa porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. Sai essa porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. Sai essa porra, porra, porra, porra, porra. Sai essa porra, porra, porra, porra, porra. Sai essa porra, porra, porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Sai essa porra. Essa porra.